Dare una lettura politica delle elezioni locali è sempre complesso perché ci sono tante particolarità locali, casi specifici e tanti eventi locali che perturbano un'analisi generale. Ciò nonostante, alcuni dati sono venuti fuori dalle elezioni locali francesi che si tengono tutte allo stesso giorno e dello stesso anno, al contrario di quello che avviene in Italia. Sicuramente si può dire, secondo me, che la sinistra ha tenuto. Se si guardano i risultati in alcune grandi città come Parigi, Marsiglia e Lione, ma soprattutto Marsiglia, che era quella più in pericolo era che finisse nelle mani dell'estrema destra, che fosse la prima grande città francese in cui l'estrema destra vinceva un ballottaggio e la governava. Una città piena di contraddizioni, come sappiamo, e con una storia molto difficile, governata per tanti anni da una destra molto ambigua sulla criminalità organizzata, quindi è una vittoria quella di Marsiglia che vale doppio. Però queste elezioni mostrano anche che i bastioni della sinistra francese, in genere le grandi città, i centri urbani, non sono più così scontati come erano prima, perché certamente Parigi, Marsiglia e Lione si è vinto, ma in altre grandi città importanti come Tolosa, per esempio, è la destra che avanza. Ci sono città tradizionalmente di sinistra come Clermont-Ferrand, o Brest dall'altra parte, ma anche il Porto delle Havre, cui ci sono i portuali, sempre protagonisti degli scioperi, che o restano a destra, come nel caso delle Havre, o passano a destra, come per esempio nel caso di Brest o di Clermont-Ferrand. Se si vuole fare un'analisi, diciamo, un po' generale di questi tanti casi particolari che si presentano nelle elezioni municipali, si può dire che la Francia resta un paese di destra. È un paese di destra all'interno di un continente di destra, di un mondo occidentale, come vediamo negli Stati Uniti, in Italia, in tanti altri paesi, rimane di destra con una forte tendenza di estrema destra. Detto questo, la differenza forse con altri paesi e forse con l'Italia è che c'è un po' più di resistenza e si riescono ancora a segnare alcuni punti che possono essere dei punti di appoggio per una resistenza e un'opposizione a un'estrema destra che comunque avanza dappertutto. È vero che il Fronte Nazionale, o meglio come si chiama oggi, l'Assemblea Nazionale, non ha ottenuto i risultati sperati, però in tanti casi riesce a eleggere. Alcune città avevano già confermato i sindaci dell'Assemblea Nazionale al primo turno, come in diverse occasioni, diciamo in diverse città del sud della Francia, in altre riescono a guadagnare città piccole e medie. Quindi è mancato la grande vittoria che loro speravano, che potesse preannunciare e preparare quella dell'anno prossimo alle presidenziali, però d'altra parte in molte occasioni sono riusciti a vincere e nello stesso modo bisogna sempre fare attenzione perché col sistema a doppio turno in alcuni casi anche importanti la sinistra ha vinto pur essendo minoritaria, cioè in casi in cui per esempio c'erano due liste di destra, magari la sinistra vinceva col 40%, però il dato politico è che c'è un 60% della città che magari rimane a destra, per cui sì, si guadagna il sindaco. Però ci vuole una lettura più politica di quello che è avvenuto, oltre al fatto che non va mai dimenticato che, malgrado che queste fossero elezioni locali, cioè quelli in cui in genere, per tante ragioni, negli ultimi decenni le persone erano portate a votare, ci sono tassi di astensione che sono molto importanti, molto spesso maggiori rispetto al passato, e quindi anche questo, dal mio punto di vista, non è un buon segno per la salute della democrazia francese ed è qualcosa su cui ragionare, su cui non solo i francesi dovranno ragionare, ma penso che un po' in tutto l'Occidente si debba cominciare a ragionare, a capire perché una parte importante della popolazione non vede alcuna differenza se vince un sindaco di estrema destra o uno di sinistra. In ogni caso vedremo quello che avverrà nei prossimi giorni. Il dato politico è che comunque la sinistra resiste, ma che c'è una destra e un'estrema destra che comunque segnano dei punti e aumentano la loro influenza sul paese.